La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al volume edito dalla Terza, Il cattivo tedesco e il bravo italiano, la rimozione delle colpe della Seconda Guerra Mondiale, di Filippo Focardi, docente di storia contemporanea all'Università di Padova, oggi ospite ai nostri microfoni. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato alle origini dell'essere umano, agli strumenti e alle idee che hanno aperto la strada al trionfo del genere umano sulla Terra. La parola va a Dino Pesole. Tedeschi e italiani nella Seconda Guerra Mondiale. Da un lato il tedesco cattivo, barbaro, sanguinario, razzista, pronto a eseguire gli ordini con brutalità. Al contrario il bravo italiano, avverso alla guerra, cordiale e generoso anche quando veste i panni dell'occupante. Sono i due stereotipi che hanno segnato la memoria pubblica nazionale e consentito il formarsi di una sorta di zona d'ombra, che è quella di non fare i conti con gli aspetti aggressivi e criminali della guerra che l'Italia combatté a fianco del Terzo Reich. E questo è il tema di fondo del libro di Filippo Focardi, docente di storia contemporanea all'Università di Padova, appena pubblicato dalla Terza, dal titolo Il cattivo tedesco e il bravo italiano, la rimozione delle colpe della Seconda Guerra Mondiale. Buonasera e benvenuto, professor Focardi. Buonasera a voi. Allora, ascoltiamo ora, prima di tutto, alcune letture tratte dal suo libro. A distinguere fra Italia e Germania era stata innanzitutto la propaganda degli alleati. La responsabilità della guerra non gravava sul popolo italiano, ma su Mussolini e sul regime, che avevano messo il destino del paese nelle mani del sanguinario camerata germanico. Gli italiani non avevano colpe e il vero nemico della nazione era il tedesco. Gli argomenti furono ripresi e rilanciati dopo l'8 settembre dal re e da Badoglio e da tutte le forze dell'antifascismo, prima impegnati a mobilitare la nazione contro l'oppressore tedesco e il traditore fascista, poi a rivendicare per il paese sconfitto una pace non punitiva. La giusta esaltazione dei meriti guadagnati nella guerra di liberazione ha finito così per oscurare le responsabilità italiane ed è prevalsa un'immagine auto-assolutoria che ha addossato sui tedeschi il peso esclusivo dei crimini dell'asse, non senza l'interessato beneplacito e l'impegno attivo di uomini e istituzioni che avevano sostenuto la tragica avventura del fascismo. Si affermò la vulgata in base alla quale la guerra era stata imposta dal fascismo ed estranea ai sentimenti dei cittadini. Di fatto, leggiamo nel libro, venne retrodatato un sentimento di distacco dalla guerra fascista che si era diffuso nel paese solo dopo i rovesci militari in Africa e in Russia dell'autunno e inverno del 42, quando era cominciata anche la fase dei grandi bombardamenti contro le città italiane, con decisive ripercussioni sulla tenuta del fronte interno. Fino ad allora lo spirito pubblico aveva in realtà oscillato in ragione dell'andamento delle operazioni belliche. Lo stato d'animo di ostilità nei confronti della guerra di Mussolini e dell'alleato tedesco, creatosi tardivamente fra il 1942 e il 1943, fu dunque assunto come condizione iniziale, caratterizzante e immutata, dell'atteggiamento italiano. La formula a cui Badoglio aveva fatto ricorso nei suoi primi messaggi da Radio Bari, della guerra non voluta né sentita dal popolo italiano, divenne in breve un vero e proprio cliché. Fu utilizzata dalle autorità italiane come alibi nei confronti delle Nazioni Unite, nel tentativo di rigettare ogni responsabilità per gli oltre 3 anni di guerra fascista combattuti dal paese fino al crollo del settembre 1943. Agli occhi dei vincitori, gli italiani presentarono se stessi non solo come vittime della ventennale dittatura mussoliniana, ma anche come vittime della guerra. Una prova terribile, affrontata con assoluta insufficienza di mezzi dalla parte di un alleato imposto e detestato e contro nemici verso i quali non si nutriva alcuna animosità, visti anzi come amici e salvatori. Ecco, allora, professor Focardi, ci aiuti a capire meglio la formazione di questo cliché. Da un lato il cattivo tedesco, dall'altro il bravo italiano. In realtà, un po' tutti, da quello che capiamo leggendo il suo libro, contribuirono fin dall'immediato dopoguerra, ma anche prima, alla formazione di questo stereotipo. Sì, senz'altro. Come avete ben evidenziato nelle letture, innanzitutto gli anglo-americani, la propaganda alleata anglo-americana ma anche sovietica, ad esempio, che per staccare il popolo italiano dal regime, al fine di far uscire l'Italia dalla guerra, ha proprio sottolineato la distanza, no? Fra appunto il popolo italiano innocente, vittima della guerra, e il regime invece come unico responsabile che aveva messo il paese nelle mani del brutale alleato tedesco. E poi altri due soggetti fondamentali, direi, Badoglio con gli apparati del Ministero della Guerra e del Ministero degli Esteri, che erano rimasti poi con Badoglio e con il re, i quali avevano tutto l'interesse da un lato certo a mobilitare il paese nella nuova guerra contro la Germania dopo l'armistizio, ma anche a far dimenticare le tendenze, no? Che gravavano anche personalmente su di loro per invece l'alleanza con la Germania e tutti gli intrecci, le responsabilità che avevano avuto nella guerra del fascismo. E poi l'ultimo soggetto molto importante, appunto l'antifascismo. Qui ovviamente la sottolineatura della differenza fra tedeschi e italiani, l'elogio, diciamo, dei meriti italiani avevano tutt'altro fondamento. Da un certo punto di vista era sacrosanta la posizione dell'antifascismo, che aveva anche responsabilità, fra l'altro, di governo dal 1944 in poi, dopo la svolta di Salerno, i partiti del CLN sono al governo e quindi si confrontano anche con l'esigenza di fare la guerra contro la Germania e in qualche modo si preoccupano per una possibile pace punitiva nei confronti dell'Italia. Ecco, una delle questioni che sicuramente potrà essere di un certo interesse per i nostri ascoltatori è capire quali conseguenze la formazione di questo cliché ha poi determinato nella formazione della memoria collettiva del nostro paese, successiva alla Seconda Guerra Mondiale. Credo che sia stato decisivo questo. Sì, è stato decisivo per non fare i conti con gli aspetti oppressivi del fascismo, no? L'Italia aveva combattuto a fianco della Germania dal 1940 al 1943. Se vogliamo, l'Italia fascista era stata costantemente in guerra fin dal 1935, dall'aggressione all'Etiopia in poi, la partecipazione alla guerra civile in Spagna, l'aggressione all'Albania. Tutti questi aspetti delle guerre fasciste in cui gli italiani erano stati aggressori e in molti casi anche purtroppo carnefici vengono per così dire rimossi attraverso questa rielaborazione dell'esperienza della guerra che sottolinea la diversità di comportamento degli italiani rispetto ai tedeschi, che aveva ovviamente un fondamento e che però serve a mettere nell'ombra la responsabilità per quei crimini di guerra di cui anche l'Italia e gli italiani si erano macchiati. Se andiamo un attimo indietro nel tempo, potremmo retrodatare e segnalare con una data la formazione, diciamo, di questo binomio di cui si parla nell'introduzione, cattivo tedesco, bravo italiano. Nell'introduzione appunto ci si chiede quando ha avuto origine, chi ha concorso a produrlo e per quali ragioni. Allora, nel creare questi cliché ovviamente si riutilizzano materiali molto vecchi, Sì. sicuramente si attinge molto anche dalla propaganda della Prima Guerra Mondiale, in cui lo scontro, no, fra la civilizzazione e la barbarie tedesca erano tutti temi che erano già stati ampiamente utilizzati. Poi per me però nella Seconda Guerra Mondiale un elemento fondamentale è rappresentato dalle esigenze di politica estera e dunque io sottolineo proprio come questo cliché, questi miti vengono creati negli gli anni che vanno dal settembre 43 dopo l'armistizio fino all'inizio del 47, nel febbraio 47 l'Italia firma il trattato di pace, quindi soprattutto direi sono gli anni in cui ci sono si svolgono le conferenze della pace per l'Italia fra diciamo il 45 e il 46, quelli sono anni cruciali. In alcune parti del libro si fa riferimento, in diverse parti, al ruolo che ebbe il Partito Comunista di Togliatti. Possiamo in questo discorso appunto di formazione del cliché, quindi di contributo decisivo alla formazione della memoria del nostro paese, possiamo sintetizzarlo? Ma sì, come tutte le altre forze politiche antifasciste del CLN che ebbero responsabilità di governo, no, dalla primavera del 44 in poi, anche il Partito Comunista concorse a creare questo cliché, sottolineando i meriti dell'Italia antifascista e della resistenza e in qualche modo anch'esso mettendo da parte l'attenzione rispetto invece ai crimini e alle responsabilità del fascismo. Va però anche sottolineato per correttezza che almeno nella fase iniziale, nel 44, i primi mesi del 45, quando ancora esisteva una prospettiva per l'Italia di diventare alleata di pari livello con gli alleati, furono le sinistre, comunisti, socialisti e azionisti, a provare a fare i conti con i crimini di guerra italiani commessi durante la guerra fascista. Successivamente, dopo l'occupazione temporanea degli jugoslavi, no, di Trieste e della Venezia Giulia, quando apparve a tutti chiaro che l'Italia sull'Italia pendeva la minaccia di un trattamento punitivo da parte dei vincitori, allora ci fu un riflesso di autodifesa nazionale anche nelle sinistre e anche nel Partito Socialista e Partito Comunista, e dunque a quel punto si mise da parte, diciamo così, la resa dei conti con gli aspetti negativi della guerra fascista e ci si concentrò del tutto legittimamente, devo dire da un punto di vista politico, nel mettere in evidenza i meriti che esistevano, erano reali, dell'Italia antifascista e della resistenza. Grazie professor Focardi per questi chiarimenti. Il cattivo tedesco e il bravo italiano, la rimozione delle colpe della Seconda Guerra Mondiale, pubblicato dalla Terza. Grazie ancora e buona serata. Grazie a voi, buona serata. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte della Storia e la Memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato alle origini e al trionfo del genere umano. Siamo nati per sopravvivere in un mondo pieno di pericoli. Le avversità ci hanno resi più forti. In mezzo al caos di un pianeta implacabile sono nati idee, sogni e nuovi futuri. Questa è la storia di tutti noi. 13 miliardi di anni dopo la nascita dell'universo, compare una specie unica, l'essere umano. Nelle praterie dell'Africa orientale inizia la nostra lotta contro le avversità. Una banda di fratelli. Il loro capo è l'antenato genetico di tutta l'umanità. È 5 centimetri più alto di un europeo moderno. È un atleta naturale e un cacciatore nato. Ha una visione binoculare che permette di calcolare le distanze. È destrimano. Corre su due gambe. Ma non ha nessuna delle armi naturali degli altri predatori africani. Non corre come il ghepardo. Non possiede la forza del leone o le ganasce potenti della iena. Per cui si ingegna. Richard McMachovitz, esperto militare ed ex Navy SEAL. Gli utensili ti rendono migliore, le armi ti rendono più potente. E per usarli devi stare sulle gambe. Devi avere le mani libere. Liberare le mani per utilizzare degli strumenti cambia il gioco. Nessun'altra specie del pianeta ha mai utilizzato armi o utensili